Gigi, a Gigi, ma che sta a cucinare sul barbecuro? Sul barbecuro sto a cucinare la sarciccia. Ma sarciccia? Ma che sarciccia è? La sarciccia de maiale? No, a sarciccia de manzo. Sarciccia de manzo, a sarciccia de porco bue. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Santissimi amici miei, bentornati a questa puntata finale, finale di stagione, season finale di Frullo di Tamburi, morti di Frullo di Tamburi, bestemmie. Chi vi parla è Bestemmia Alex, che stasera bestemmierà liberamente. Non me ne frega un cazzo se avete dei parenti che credono nelle varie divinità, nei sette dei, madre, padre, guerriero, sti cazzo, morte. Tazzi, non ti ho ancora presentato. La vecchia, Denti, non dimenticarti la vecchia. Allora, non rompete coglioni. Qui con me, direttamente dall'Emi Studio, perché si dice Emi Studio, ragazzi, Emi Stupido di Roma, presentatevi. Buonasera a tutti da Simone e il Bestemmia Pizzi. Siamo qui nel nostro Emi Studio e questa volta diciamo non siamo più come i vecchi tempi che ci sacrificavamo per la patria. Siamo con l'aria condizionata accesa, quindi se questo influirà sulla qualità del nostro audio non ce ne frega assolutamente un cazzo. Con me c'è Marco Gualdi. Ciao, io mi sento molto Gualdix, non so perché, mi sento qualcosa che sta per uscire, forse anche a me sono bestemmie, chi può dirlo, ma non ne sono sicuro. Gualdexit. Ecco. O Mark Exit, giusto. E insieme a noi, vicino a Marco, che tra l'altro abbiamo fatto notare che non gli ha squillato il cellulare oggi, attenzione, ma cosa non è importante squillare, se volete. Michela De Paola. Ciao a tutti, io sono qui in rappresentanza del titolo. In rappresentanza di voi. Del titolo dell'episodio, insomma, quindi. Dell'uscita. Texit per esci tutti. Esci le zizze. Esci. Ride, però ride. Michela, tu non prometti zizze e non fornisci. Ma non quaglia, c'hai ragione. Vero. Però so, insomma, che è di solito. Sì, che si fa, eh? Abbiamo le nostre ascoltatrici che di solito le esci. Sì, escono privatamente. It doesn't work this way. Allora, dicevamo che questo episodio si chiama Ted Texit. Diciamo che vuole ripercorrere un po' anche la tradizione di questo programma prima che prendesse la deriva di Morti di Trono di Spade, che il prossimo anno sicuramente potrà riprendere, quindi fate attenzione. Ma addirittura potrei prendere anche un'altra deriva che non c'entra un cazzo ancora, perché noi siamo fatti così, non ce ne frega niente. Però, insomma, ritornando un po' alla trasmissione, questa sera faremo un po' di morti di bestemmie. E siccome in questo periodo ce ne sono stati tanti, era inutile dedicare la nostra attenzione solo a un argomento, giusto, Marco? Esatto, perché bisogna anche saperle fare a 360 gradi le bestemmie. Per cui quando c'hai la raffica, no? tipo la rossa, no? Quando spari col fucile quella a pallettoni, c'è la rosa ampia. Tipo quello, com'era? Un giorno di ordinaria follia lì. Beh, più o meno sì. Che a un certo punto ti parte la brocca e cominci a smitragliare bestemmie. Smitragli bestemmie, trovi dei bazooka, sbazuchi bestemmie. Cioè, praticamente è tutto quanto un fiorire di sacrilegi, insomma. Tu, Michela, ce l'hai un po' di bestemmie? Io? So che tu eri venuta per il Trono di Spade, no? Sì, infatti, mi cogliete molto impreparata. Molto impreparata, ma pure noi siamo impreparati come sempre, giusto, Alex? Ma io non so neanche che cazzo ci faccio qui oggi. Sto guardando la scaletta in questo momento e sto correggendo gli errori di battitura. Pensa a te quanto ma, sono bello. Ma sti oggi. Cazzi, tanto che tanti chili al chilo legge. Perché chi li ha scritte deve morire di bestemmia. Sì, probabilmente nel, sì, nel sei, mio sei caso tu. Sì. No, ho fatto pizza. Ah, questo spiega molte cose. Nel mio caso c'è comunque Simone che le bestemmia per tutte e due, quindi io sì, assolutamente. Poi sono diventata molto zen lavorando con il pubblico, ho imparato. No, io questa sera sono zen perché ho già bestemmiato contro la vecchia fuori dalla finestra, quindi cioè, mi sono già sfocato, purtroppo non doveva succedere questo, però insomma io direi che ne possiamo anche iniziare, no? Alex, che cazzo stiamo aspettando? Che ci esca, no, perché qualcosa? Appunto, escile, perché poi dopo se le nostre ascoltatrici le escono ce lo facessero sapere, perché questa è la puntata dove bisogna uscire, in questo caso noi usciamo le bestemmie, perché che cosa è successo durante questo periodo? Sono successe tante cose, anche brutte, ma quelle per questa sera le lasciamo un po' da parte. È successa una cosa epocale, Brexit. Brexit, no? Che praticamente questa la Gran Bretagna che a un certo punto ha fatto questo referendum per uscire ed è uscita. E diciamolo allora, in termine no, tecnico, si è levata dai coglioni. Dai coglioni. No, oh, era ora. Che poi, ma non c'è ancora levata dai coglioni. No, ancora non si è levata dai coglioni, però tutti stanno a disdaglie però. Che dagli, pensai anche a pesà, dagli un po' a questi coglioni, perché insomma alla fine sono stati sempre un po' con piede dentro, un piede fuori, noi siamo a Gran Bretagna, però insomma sto Brexit che alla fine è uscito e potrebbe creare degli sconvolgimenti epocali, ci facevano scenari che non finivano mai, e noi ci siamo domandati, Alex, chi è che deve morire di bestemmie? Questa è poi la domandona, ce n'abbiamo tante. Guarda, vogliamo partire, c'è una lista infinita già solo nella nostra scaletta. Allora io vorrei dire due cose facendo la persona su seria. Brexit. Prima di tutto devono morire di bestemmie quelli che hanno votato usciamo. E soprattutto quelli che hanno votato. Ma ci stanno pure loro in scaletta. Esatto. Ah, ok. Però la cosa fondamentale è che ancora non è successo niente. Questo è un referendum consultivo, nel senso, cosa volete fare? Questo non vuol dire che poi lo facciamo. Cioè, ricordate che secondo Vukovsky la grande differenza tra una democrazia è una dittatura, è che nella democrazia prima si vota, poi tanto il governo che decide cosa si fa, appunto. È sempre stato, soprattutto che nella dittatura si risparmia. Sì, nella dittatura è molto più efficiente per questi versi. Allora, la cosa fondamentale è che hanno chiesto di fare questa cosa qui. Cosa facciamo? Però poi non è detto che questa venga convertita in una roba attuata, che venga poi ratificata. Già il governatore della Scozia ha detto: ma sto grande cazzo che io firmo sta merda. Cioè, piuttosto andare tutti a fare in culo. Il primo ministro scozzese è donna, che ha detto: noi siamo a favore dell'Europa, quindi adesso se la Gran Bretagna esce noi chiediamo l'adesione. Quindi, cioè, poi questa cosa tra Inghilterra e Scozia c'è sempre stata, insomma, quindi è un po' particolare, no? Giustamente, allora, noi abbiamo votato per restare in Inghilterra, cioè nel Regno Unito, insieme all'Europa, ma voi andate, andate a fanculo. Era pure ora. Vabbè, comunque non lo so quello che succederà, perché insomma se fanno all'italiana anche il Canada cominciato a dire: ma forse quasi non entriamo in Europa, ma vi andiamo a fanculo lo stesso, insomma. Il Canada? Sì. Sì, perché sia il Canada che l'India che la Nuova Zelanda o l'Australia, non mi ricordo. Allora, a un certo punto, quando hanno visto le brutte, perché il Canada fa parte del Commonwealth. Sì, teoricamente sì. Il capo di Stato è la regina del Canada. Ah, vedi, è una vedi, cosa un po' strana. Vedi, queste cose. Loro sono comunque affiliati all'Inghilterra. Dovremmo mettere la musica, quella impariamo la geografia. È un franchising più o meno. Il Canada è un franchise. E però loro comunque hanno detto: vabbè, a sto punto usciamo anche noi dall'accordo prima che ci trascinate nel baratro. Nel baratro, infatti. Dovremo ribestemmie. Che poi non è detto che faranno come fanno in Italia, che fanno il referendum come sull'acqua pubblica e poi dice: ah, ha vinto l'acqua pubblica, ma sti cazzi. Loro insomma ci tengono alla democrazia. Sì, ci tengono alla democrazia. E quindi il primo a morire di bestemmie chi è? È Cameron. Cioè, voglio dire, il Cameron che è il primo però ministro. Per primo per importanza o perché? No, il primo perché se lo merita per primo adesso è morto. Okay. Perché lui ha detto: vabbè, volete fare referendum, è giusto, la democrazia è importante, famo referendum dentro di sé, diceva, e neanche troppo dentro di sé, tanto perdono. Quello lui praticamente ha fatto la stessa vignetta che circola con Fassino, che dice: ma se Grillo pensa di mettere su un partito, prendere voti, metta su un partito e vediamo cosa succede, presente? Sì, questa esatto. È stata la stessa cosa. E sia Fassino in prima persona, sia Cameron l'hanno pagata, la stanno pagando. È interessante come Morte di Bestemmie sta facendo politica internazionale. Cazzo, ma bestemmiamo, parliamo di Sorca. Dobbiamo appunto bestemmiare. Bestemmiamo su Cameron, che è un coglione, perché diciamolo al modo nostro. È un coglione perché lui veramente si è andato lì, si è approcciato dicendo: dai, io sono europeista, noi tanto vinceremo queste benedette elezioni. Ha fatto tutta sta campagna. Voi rompete il cazzo che volete andarvene, ve fammo vedere noi. Esatto. Che capito? Cosa significa l'Unione Europea? Volete votare perché è giusto, perché è giusto. Sì, ma vabbè, e questo alla fine è successo, insomma, che Cameron, ma che poi secondo me non si aspettava nessuno sto risultato, neanche chi ha votato sì. Esatto. Anzi, secondo me chi ha votato, cioè chi ha votato alla fine non lo sa manco da votato sì, ha detto vabbè, ma tanto siamo due gatti, siamo noi, quindi mi fanno anche pena voto a favore del Leave, dai, andiamo. Invece col cazzo. E chi è il secondo a morire di bestemmie? Secondo a morire di bestemmie è il pescatore della provincia britannica. Cioè, nel senso, l'uomo che ancora pensa che esiste l'impero britannico. C'è un aneddoto. Il nazionalista. C'è un aneddoto, perché. Vai con l'aneddoto. Alcuni pescatori, non mi ricordo se del Galles o. Che poi è Inghilterra e Galles quelli che hanno determinato tutto. Alcuni pescatori del Galles, quando hanno capito che poi avrebbero perso anche gli incentivi della comunità europea, hanno detto: no, vabbè, usciamo perché ci fate schifo, però i soldi della comunità europea dateci lo stesso, capito com'è? Perché tanto noi abbiamo fatto sempre così, quando ci chiedevate di darvi una mano vi facevamo il gesto d'ombrella, quando invece ci stava da avere noi dei vantaggi ci riprendevamo, quindi continuiamo a farla questa cosa. E mi sa che stavolta invece l'Europa che il gesto dell'ombrello io fa per davvero. Ma poi secondo te, Alex, cioè bestemmiamo su questa cosa dell'impero britannico, cioè questi veramente ancora stanno così? Allora, il problema è che la popolazione di una certa età, e lo vedo anche in Italia, vede che le cose adesso vanno peggio di una volta, punto. Non c'è niente da dire, cioè nel senso, si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando c'era la lira. Loro vedono che il mondo è cambiato, c'è una grandissima crisi, vedono che non hanno più le stesse prospettive, soprattutto dai 50 anni in su, che torniamo come eravamo una volta, senza però capire profondamente dentro che non c'è più una volta. Una volta che fai un passo non puoi più tornare indietro, non esiste più. Cioè, quelli che dicono usciamo dall'Europa, torniamo alla lira, non hanno capito che se lo facessero, il giorno dopo arriverebbero 25 cinesi, ma 25, ognuno con in mano una borsa con 25 monete delle loro, e ci comprerebbero tutte. Cioè, questo è il mondo come c'era una volta, non c'è più, è finito. Dimentichiamocelo. Possiamo rimpiangerlo? Sì. Possiamo dire porco Diaz, che palle che è successo? Sì. Possiamo tornare indietro? No. E questa è la cosa, nel senso, non si può tornare indietro. Loro hanno detto sì, torniamo di qua, ma fondamentalmente l'hanno anche vista in maniera un po', come dire, ma sì, tanto io c'ho la pensione, che me frega. Infatti sono i cazzi dei giovani queste cose qui, i giovani dove ci metto dentro anche noi, cioè che quelli della nostra età che non prenderemo la pensione, per dirti, l'equivalente inglese di questa cosa. Sì, quindi vive giovani e bassi vecchi, quindi fondamentalmente l'Inghilterra è un paese anche quello vecchio, come noi siamo tutti vecchi. Che posso dire una cosa che non c'entra niente, non sta in scaletta, visto che Alex l'ha citato, i cinesi che tra l'altro si sono comprati due tra le tre più importanti squadre di calcio italiane, quindi insomma siamo, è veramente, il mondo sta cambiando e non è detto che, cioè io lo capisco un po' il pescatore britannico, perché dice sto mondo sta cambiando talmente velocemente, io a un certo punto me lo sento che me lo stanno sfilando sotto il culo, e in effetti un po' la sensazione. Il problema è che se tu ti metti per i cazzi tu te lo sfilano più velocemente sotto il culo, questo quando sei piccolo, perché sei piccolo, cioè una volta eri in grande impero britannico e c'era mezzo mondo, quindi alla fine sta cosa dell'impero britannico ce l'hanno, insomma, sì o no? Io questo voglio sapere. Ma da il voi, problema, Alex, è che non hanno più l'impero. Se hai un impero, fondamentalmente hai le tue colonie che, dalle quali tiri fuori le materie prime, cioè, e poi le porti in patria, cioè nel senso è un posto dove hai una tua base a basso costo che produce cose che poi ti porti in patria e poi rivendi, eccetera eccetera, è una tua colonia di produzione. Non c'è più l'impero, cioè l'Australia può anche essere parte del Commonwealth, ma si fanno bellamente i cazzi loro, lo stesso di cose del Canada e di tutti gli altri cagoni che ci sono nel Commonwealth. Non esiste più l'impero britannico, di conseguenza l'Inghilterra, cioè la Gran Bretagna da sola, il Regno Unito non ce la può fare, non ha materie prime, non esporta praticamente niente. L'unica cosa che esporta di grande qualità proprietà sono i contenuti audiovisivi della BBC, credo, e nient'altro. Il resto è assolutamente... Però potrebbero camparci, no? No, non ci potrebbero campare. No. Anche perché comunque con l'importazione invece... E ci vanno a rimettere, perché comunque le tasse doganali poi diventano... Ma è giusto, è giusto, le tasse doganali li devono massacrare questi, perché poi diciamoci un po' la verità, un po' sui coglioni ci sono sempre stati, no, con sto fatto che loro l'euro sì, il coso no, questo come faccio lo dico io, questo è... alla fine voglio dire, insomma, è un po' la conseguenza di quello che si sono cercati, no? Sì. Michela, tu che un po' li conosci sti cazzarola dei benedetti inglesi, no? Che ti sono sempre piaciuti, andiamo a Londra, no? Che modo ci vorrà fra un po'? Sbrigate che sennò devi far passaporto. No, vabbè, ormai ci sono andata 50 volte. Ah, quindi sti cazzi, mi dispiace, cioè, possono anche figlio. Affondare tutti insieme, vanno in Germania, tu via, insomma, tanto, cioè. Infatti sì, io gli ho detto che deve andare in Germania, non gli ho detto che sicuramente gli ho detto non deve andare in Inghilterra. Cioè... magari in Irlanda oppure in Scozia, che sono quelli europeisti, no? In Scozia, poi la Scozia è un grande paese, poi un giorno vi racconterò della Scozia. Ma comunque c'è da dire che Londra non è l'esempio da prendere, perché comunque è vero, Londra ha votato per rimanere, è vero, ha votato per... Vabbè, un po' come New York si distacca dal resto degli Stati Uniti, dell'Iowa e cazzo in pezzo. Infatti negli Stati Uniti c'è, quelli di destra dicono New York la città dei froci, proprio molto molto chiaramente. Scusate, ma io sì. No, non c'è il problema. Forse allora, posso dire una cosa? Intanto i nostri teleascoltatori ci dicono che fondamentalmente la cosa divertente è che la politica non aveva un piano per dopo uscita, ma le aziende sì. Mentre parliamo, Cisco, IBM, eccetera, stanno spostando gruppi in Francia e in Germania. E penso che poi toccherà agli istituti finanziari, dice Carmine. Io non sono del tutto d'accordo. Cioè, secondo me questa cosa non si risolverà in un niente di fatto. O... nel senso, in Inghilterra direi in qualche modo si inventerà una gabola politica per dire no, ok, sto referendum non è valido, no, abbiamo cambiato, oppure usciranno dalla UE, ma fondamentalmente che faranno dei trattati che lasceranno le cose praticamente inalterate. Sì, Alex, però c'è un piccolo problema nella seconda parte, perché loro non hanno le persone che possono fare i trattati, cioè dovranno assumerli all'estero, lo sai questa cosa, stavo leggendo stamattina che praticamente non hanno i negoziatori. Vabbè, a noi di questo fondamentalmente ce ne frega manco un cazzo, però lo scenario è divertente, secondo andare, me il fatto andare a negoziare che questi fanno passare un po' di tempo così la gente si scorda, no? Dice, ma hanno fatto il referendum, sì siamo usciti dall'Europa, tranquilli, siamo usciti, però poi alla fine insomma un po' quello che succede in Italia. Comunque io passerei al terzo punto di bestemmie, perché io bestemmierei con tutti i populismi insomma europei, perché adesso va molto di moda sta cosa, adesso la Francia vuole fare il Francexit, il Cazzexit e Tetexit, come appunto abbiamo detto, e se la prendono in maniera particolare con sta cosa adesso, la leva insomma che fa molto gioco forza sulla gente è la cosa dell'immigrazione, in maniera particolare sul discorso del terrorismo, quando poi abbiamo visto che in realtà tutti questi terroristi che durante questi ultimi due anni hanno messo a ferro fuoco insomma Parigi, Londra, Bruxelles e adesso anche recenti, insomma alla fine sono tutti, era tutta gente che studiava nel loro college già da decenni, se non addirittura di seconda generazione, insomma, quindi non credo che sia poi tutto sto gran problema, no? Quindi li bestemmiamo sta gente, cioè vuoi dire che... No, perché giustamente sono convinti che uscendo dall'Europa non ci saranno più stranieri. No, infatti, allora... poi come se l'immigrazione fosse un problema europeo, cioè vuoi dire, è un problema... globale, no? Scusate, torno indietro un secondo, perché tutti dicono che come dice Carmine, dice il mio referente Cisco da settembre starà a Parigi. Sì, secondo me in questo caso le aziende, che sono molto più furbe dei politici e soprattutto del popolo che viene governato dai politici, sfruttano questa cosa a questo punto per uscirsene violentemente, dicono ah, usciamo, andiamo via, così l'Inghilterra comincerà la Gran Bretagna comincerà a fare delle sorte di agevolazioni fiscali per le aziende straniere che operano in Inghilterra, un po' come dire no, rimanete, vi facciamo lo sconto, no, rimanete, vi abbassiamo le tasse, cioè questa è una mossa economica, non è politica. È già così, è vero quello che dicevi, le agevolazioni già ce l'hanno, vogliamo fare ancora di più. No, in realtà secondo me in questo momento, come diceva Alex, quando il mondo non lo può, cioè non lo puoi frenare o farlo tornare indietro, cioè qui il problema è una forzatura politica anche finanziaria, no? Comunque tutta questa cosa dei smontamenti delle borse e roba del genere è un po' una sorta di segnale di un sistema che ti sta dicendo non fa lo stronzo, no, perché poi un po' questo detto insomma tipo come lo direbbe il pescatore gallese, don't però... be an asshole, più o meno sarebbe questo. Sì, ma il problema è che appunto ormai il danno è fatto, insomma, anche perché quello che hanno perso le borse, anche la sterlina, cioè non è che lo recuperano con due giorni, eh. Che poi tutti su Amazon UK, voglio dire. In realtà quello che dice anche Jacopo tra i commenti, il problema è molto più profondo di quello che pensiamo, perché seppure l'Inghilterra dovesse uscire, crea un buco economico grandissimo, in quanto comunque gli accordi per l'uscita dalla Unione Europea, dalla Comunità Europea, eccetera, per la Svizzera sono durati 20 anni. Quindi se loro dato che stanno spingendo per farli uscire più fretta possibile, dato che la Comunità Europea pensa che dice vabbè, adesso avete deciso di uscire, sbrigatevi, uscite. Anche così. Perché l'incertezza. Sì, vabbè, però lì è un motivo. Vabbè, comunque non siamo qua per parlare di politica o di situazioni. Noi siamo qua per bestemmiare. Ma come, questo non è fuori tempi di IPN? No. Noi siamo qua per bestemmiare contro persone che dicono cose e che hanno fatto cose a prescindere, esatto, quindi bestemmiare di ignoranza, perché noi siamo ignoranti, esatto, noi mica lo sappiamo di quello siamo che siamo dei populisti della bestemmia, per cui no, io però il maestro, secondo me il campione, che sarebbe stato il campione dei morti delle bestemmie proprio tutta quanta la stagione, anche quando parlavamo delle bimbe minchia, quando parlavamo dei bambini Satana, roba genere, è proprio Nigel Farage. Mamma mia, cioè, ma Nigel Farage è lui, è veramente il campione del mondo del morto delle bestemmie, perché è un gran paraculo, cioè veramente lì è un po' Salvini Italia, no? Che sta lì e ti dice: ah, se facciamo questo tutte le quote vanno ai lattai, ah, tutti i produttori di mucche, ah, tutti salviamo quanti... la sanità. Allora vinci le elezioni, vinci il referendum, che non te l'aspettavi, perché tu stai a sparare un sacco di strozzate perché pensai, eri convinto di perdere. C'è anche la faccia tosta della dire in diretta, no, era un ecco, po' questo cazzare. Però Salvini non lo farebbe. No, cazzo. Questo non lo farebbe, quindi un minimo di lode, insomma, diciamo, a Farage. Secondo me era talmente impreparata che non riusciva neanche a inventarsi niente. È stato là, no, è stato là. Cazzata, e ha detto: signori, io ho sparato, ho un po' esagerato. Sì, vabbè, ma un po', vabbè, scusatemi, ma un po' anche per la colpa vostra. Ma che mi credete? Che, cioè, che ma cazzo, secondo... che votate pure per tutto questo, però io, sapete che vi dico, sono un po' stanco, mi ritiro. Tra l'altro, perché poi adesso Mosse deve dare per forza, perché... Oh, vabbè, a parte che c'ha la carriera politica già distrutta in automatico, perché sì, ha raccolto i consensi, però ha detto talmente troppe stronzate, no? Che giustamente non sa neanche più come torna indietro, Alex. E poi c'ha la bella faccia, insomma, da paraculo st'uomo, eh. Ma il problema è che nessuno... Abbiamo scoperto che i popoli non imparano dalle minchiate che fanno, perché il problema è sempre, e non è mai di chi vende, ma sempre di chi compra. Non è mai del politico, ma è sempre di chi lo vota. Noi comunque siamo qua a pigliare per culo sto stronzo che comunque ha combinato il suo casino. Però il casino l'ha combinato chi l'ha votato. Ma siamo qui in attesa, terrorizzati, di un'altra elezione che ci sarà a novembre negli Stati Uniti, dove può essere che vinca la merda che si è generata uomo, nel senso, noi eravamo qua a lamentarci del merdasconi, e io mi lamento per primo, perché questo non è un podcast politico, però ho sempre detto che a me Berlusconi era una schifezza infernale, e aver votato Berlusconi è stata una schifezza infernale. Tanto è l'ultima della stagione, se non vi va più bene, non ci ascoltate più, non mi ascoltate più. Ma abbiamo l'equivalente in un altro paese, dove tendenzialmente scoparsi le sorelle in alcuni punti del paese è anche lecito, e anzi consigliato, e anzi è meglio che con i Targaryen. Per cui io sono terrorizzato da questa cosa qui, terrorizzato e incazzato. Sì, io leggevo su un articolo, ormai è passato qualche mese, però mi ha colpito molto, che anche gli stessi comunque enti, servizi segreti, eccetera, sono in difficoltà. Perché sembra che entrambi i candidati durante vabbè, il tu periodo... insisti con quest'articolo, è una stronzata. No, cioè... ma magari poi ve lo trovo, ve lo linko. Ma non perché non l'hai letto, sono sicuro, però è una stronzata. Cioè, non può essere che i candidati di entrambi i partiti, i servizi segreti, consegnano dei documenti perché devono sapere le cose. Ma non è possibile. Cioè, perché poi quando sono comunque documenti sensibili. Se tu non vieni eletto, che fai? Poi vai in giro con i dossier dei servizi segreti a fraccazzo. Dovresti avere un accordo di riservatezza. Spiegate che cosa, perché allora i servizi segreti consegnano a tutti e due i candidati candidati di alla presidenza degli Stati Uniti dei dossier con le foto su... porno dell'avversario, no? No, sulla riservatezza, cioè proprio sui documenti riservati di Stato, sia nazionali che internazionali, a seconda, che ne so, l'accordo, metti l'ultimo accordo tipo l'alieni di Roosevelt, queste cose così. Con Gerusalemme. Ma io non credo che lo vadano a dare ai... Ma infatti non è possibile, dai, una cosa del agli genere. Agli aspiranti, perché poi, cioè, comunque se sono riservati, uno non lo sapresti tu. Tanto, ci stanno alcune cose, ma col presidente, sa, quindi... No, ma il problema è che loro, cioè, avevano questo problema di consegnarlo comunque, di rendere comunque accessibili questi dati a... Trump, non mi veniva il nome, scusate. Perché... Fregno buffo, io lo chiamerei. No, ma io Fregno buffo sicuramente. Oh, cioè, Hillary Clinton contro Fregno buffo. Che, ma ragazzi, il problema di Trump non è tanto se vince o non vince, che probabilmente in qualche maniera proveranno a non farlo vincere, quello che te pare. Il problema è che Trump, se vince, non è Berlusconi che fa lo zozzone. Trump te fa scoppiare la terza guerra mondiale. Cioè, questo va a rompere i coglioni ai cinesi. Ma va, ma figuriamoci, lui comunque è un altro pupazzo. Cioè, poi quando sei lì non ti fanno fare il dittatore, non ti fanno fare... Questo sicuramente, non ti... però... Cioè, soltanto la Corea del Sud, la Corea del Nord, credo che abbia questo tipo di approccio in cui c'è il supremo manco lui, perché vedi che c'ha un cicciu, come si chiama lì, il cazzo di dittatore da Corea, ogni tanto facevano sparone, poi arrivavano i cinesi e pigliavano una orecchia e facevano, ma ero tutti i coglioni, capito, perché non va bene. Infatti poi è un po' che si sente, ogni tanto gli fanno sbrana qualcuno dai cani, così insomma esplode una bomba nucleare da qualche parte, esatto, così lui è contenta e contento e via dicendo. Contenta perché passiamo al prossimo morto delle bestemmie, la morta di bestemmie che secondo la summa, me perché, la ma, summa del reale, che è un po' come il discorso, è come la vecchia che ho vicino di casa, io la stessa cosa, vecchia, cioè sei vecchia, capito, cioè oltre che, cioè, è la regina del cazzo. Esatto, o la fucking queen, cioè nel senso la cazzo di regina, cioè nel senso è quella che lei per una questione istituzionale, io non dico niente, non prendo posizione, però poi dentro di sé da una parte c'è sempre questa cosa dell'impero britannico, capito, che torniamo indipendenti, noi impero abbiamo conquistato mezzo mondo, meglio dei romani, mo che però hanno vinto. Gli ero del culo. No, non gli ero del culo. Ho detto, ma quasi quasi pure io me do. C'ho una certa, quindi adesso lascio tutto in mano a mio William, figlio. Mio nipote. William, ah, perché per figlio pensa che lo salubbe passa stavolta. Io non so, c'ho come impressione. No, ma c'ho non so, tipo la sensazione che Charles. Non so perché. Ah, beh, comunque posso. Insomma, praticamente si danno tutti, fanno una fuga. Questo è il vero Brexit. Questo poi, cioè, esatto. Andassene proprio spariti. Che poi mi ricorda tantissimo, insomma, proprio, cioè quasi i reali italiani, insomma, che pure quelli hanno a un certo punto hanno detto, vabbè, se ne sono nati. Quasi. Però poi ad un certo punto ritorna, come si chiama? Non le fa Filiberto questo coglione. Sì, qua, a cantare la canzone a Sanremo. No, ma al di là di cantare, ha fatto pure delle dichiarazioni politiche. Ripeto, c'era, cioè, cioè, era quello. Mi ricordate la canzone con Pupo, di quello che non volevi dire, dici. Madonna, delle cose assurde. Comunque Danilo ci consiglia un bellissimo slogan per la regina, ovvero shame, shame, shame. Quindi, che merda a volare proprio. Quindi che vuoi dire, Alex, sulla regina? Ma ripeto, tu hai detto che io sono super parte. Secondo me lei ha detto qualcosa. I'm in a sciacquola fregna, cioè. O quello che ne resta, che insomma, sa mai. Vabbè. E vabbè, e poi Jacopo che ci dice che lui è l'unico della famiglia reale rimasto in Italia e si è suicidato da solo di bestemmie. Ma magari, guarda, io penso che il povero Jacopo. Ah no, lui pensavo che si suicidava il coso, Emanuele Filimberto. Io poi, tra l'altro, posso dire, penso che una delle poche persone che se lo incontri per strada ti viene voglia di dargli in carcere. Il problema è che poi dopo ci passi pure i guai. Emanuele Filimberto. Ah, ok, sono sempre Jacopo. No, ma Jacopo, no, ma Voraccio, scusa, non lo conosco neanche. E poi il, insomma, uno tra i, qui bisogna, qui Alex devi cominciarti da fuori le bestemmie, perché no, poi Alex, è una cosa che ci appartiene un po' da sempre sta cosa, perché per chi gli piace il calcio, allora la nazionale inglese di calcio, che quanti cazzo di anni so che questi ogni volta dicono da 150 anni che il calcio l'hanno inventato loro, che loro sono i più forti di tutti, e per vincere un mondiale hanno dovuto organizzare loro e hanno dovuto pure arrubare, per come facevano i coreani là, se vi ricordate, insomma, che in Corea improvvisamente durante le Olimpiadi era esplosa il medagliere della Corea, erano diventati tutti atleti quando non sapevano neanche Pedro Moreno che si è costruito le case, sì sì, no, si comprava le macchine, le barche e via dicendo, insomma. Quindi vogliamo dire qualcosa sulla nazionale inglese che ha fatto Brexit dall'europeo, insomma. Sì, hanno fatto in modo monumentale, no? Cioè il Brexit dall'Europa, e loro hanno fatto il Brexit dagli europei, ma in maniera veramente come si può definire, mitica, mitologica. Cioè hanno perso contro gli islandesi appunto, gli sta, insomma. Bene, infatti l'Islanda è diventata praticamente mitica. E quindi niente, l'ha fatto bene. Alex, ma ti dirò, io il modo migliore per andarci. Quest'anno gli europei, per vari motivi, anche scaramantici, li ho seguiti veramente poco. Per cui devo dire che non ho visto neanche mezzo istante del calcio inglese. Ci siamo accorti, perdona la battuta, no, però. No, ma ragazzi, non era colpa mia l'altra sera, sorry. Cioè, vi ho chiesto scusa troppe volte, tante volte, dai. Troppe volte. Sì, troppe volte. Io non lo so, non mi sono perso i messaggi, quindi devi fare tipo vergogna. Sì, sì, adesso guarda, mi spoglio nudo e mi faccio tirare la merda dai miei compaesani. E bravo, mi faccio pisciare addosso, va bene. Però di sì, ma tanto del calcio inglese devo dire la verità, apprezzo le squadre e il modo di giocare calcio. Beh, c'hanno i soldi, quindi. Sì, ma apprezzo il modo di giocare il calcio all'inglese, nel senso in cui, cioè, non ci sono fighetti che si buttano. Fino a qualche anno fa era veramente bello maschio e bello figo. La nazionale non è mai stata sta grande forza, cioè, nel senso, sì, nominalmente sì, ma poi in realtà in pratica non ha mai combinato un benemerito cacchio. Per cui è una di quelle cose che mi lasciava abbastanza così. Fregava me ne sciacco la fregna anche di questa. Per questo. Sempre, cioè, tu la regina, sì, la nazionale, sì. Se tu gli chiedi scusa una regina nazionale, me ne sciacco la fregna. A wash my pussy. E vabbè, insomma, anche perché, insomma, cioè, non è detto che se tu inventi qualcosa poi la devi sa bene. Inventi la pistola e non sei automaticamente un tiratore scelto. No, ma è stato bello perché anche in Coppa America, no, adesso non c'entra niente, tanto adesso andiamo, ma anche a Euro 2016, visto e considerato che pure lì c'è un po' di bestemmie. Cioè, pure in Coppa America, tu vedi, arriva il Brasile, quando arriva il Brasile, perché c'è sta cosa, no, che noi siamo il Brasile, e scendono in campo e già te stanno tutti a prendere per culo, perché stanno là tu con la palla, se la passano de chiappa, se la passano de coscia, se la passano de stinco, se la passano de come si chiama questa qua, come si chiama, la tempia, bla, se la passano de tempia, sono tutti dei fenomeni, tu palline se vanno a casa. E poi dopo mezzo popolo brasiliano a piagne, a suicidarsi, o andare tutti quanti dai carismatici per pentirsi, insomma, perché poi questo fanno i brasiliani, no? Cioè è la stessa cosa la nazionale inglese, solo che loro la prendono un po' diversamente. E comunque, visto e considerato quello che hanno fatto i russi e gli inglesi a Euro 2016, insomma, il fatto che se ne sono nati tutte e due le nazionali, non ha fatto veramente male a nessuno. Ma i russi? E i russi se ne sono nati subito, usciti al primo turno. Ma c'erano, manco me ne ero accorto. Se ne sono accorti i francesi. A proposito, visto che stanno giocando, cosa stanno facendo Galles-Portogallo, ragazzi? Cioè, ma non ce ne può fregare come di meno. Per me, Galles è il Galles sta chiedendo soldi all'Europa. Questo lo so. No, io assolutamente ti faccio il tipo per Galles. Se intanto volete commentare il primo morto di bestemmie su oggi che ci segnala Danilo, quindi forse dobbiamo vederlo. Cosa? Che ce lo segnala qui nei commenti. E beh, allora ce lo riportasse, fa copia e incolla, dai. Su oggi. Però se ci uccide di bestemmie va bene. No, ce lo riporti così, fai in copia. Noi possiamo andare in stile morti di bestemmie, faccio un copia. Allora, in attesa di andare a vedere che cosa fa il Galles, entriamo a questo punto comunque. Proprio. Ok, 0-0, forza Galles. Un sacco di cazzate e log comuni sul Brexit, che tristezza. Ma infatti non è quello, abbiamo detto. C'ha ragione. Comunisti della bestemmia. C'ha ragione. Deve essere sicuramente un fascista quello che ha scritto questa cosa. Chi è che l'ha scritto? non lo so, un anonimo, capito? È uno di quelli che. Però comunque è anche vero, cioè noi lo stiamo dicendo apposta che. Essere Farage. che nel frattempo si è imparato anche l'italiano. Però ma si deve minimizzare pure quello, insomma. Detto questo, allora, la prima cosa che voglio bestemmiare di Euro 2016, visto e considerato che siamo veramente quasi alla fine, a parte il grande lavoro che abbiamo fatto noi con Euro Ludica, perché veramente siamo stati bravissimi. È il regolamento UEFA. Volevo dire che le musiche erano bellissime. Non è vero, io posso dire che ho avuto problemi intestinali per giorni. Comunque, a parte hai perso delle amicizie grazie alle musiche di Michela. Esagerati. Adesso si offende tantissimo, vabbè, tanto. Ma tantissimissimo proprio. Poi l'ha presa proprio sul pesante. Ha detto mi stanno offendendo. Ho detto quindi adesso. Adesso ha chiamato la montagna. Io ho detto Simo, ma tu non mi dipendi. No, ha detto menali. Io vengo a menarvi adesso. Comunque il regolamento UEFA, il regolamento UEFA che penso che prima o poi, insomma, anche qui un po' una sistemata tocca ridargliela, perché mi domando come possa arrivare in semifinale una squadra che ha vinto solo una partita. Vedi il Portogallo. Perché le altre squadre che ha incontrato erano ancora più merda e non hanno vinto abbastanza. Sì, ho capito, ma non ha mai vinto una partita. Ma non è un regolamento. Cioè, nel senso, cioè, fondamentalmente ha fatto più punti degli altri. Guarda, nel suo girone. Ma potresti anche vincere il mondiale. No, allora, no, fermi tutti. Allora, il Portogallo è passato come terza per bucio de culo. Esatto. Sì. Ha pareggiato le due partite successive, quindi le due eliminatorie, è passata soltanto ai calci di rigore. Poi ha vinto l'ultima partita, che è quella là, quella di ieri, quando è. Perché poi ha vinto 1-0 tra l'altro al 90 cazzesimo. E poi e adesso si ritrova al semifinale. La squadra è merda poi fondamentalmente, perché una squadra, è una squadra solida. È una squadra del merda. È una squadra solida, fa del bucio del culo la sua arma segreta e funziona. Esatto, cioè. Poi diciamo l'equilibrio anche del tabellone, che da una parte c'erano tutti, dall'altra si facevano le passeggiate, capito, roba del genere. E consideriamo ancora meglio come può essere questa questione pure del ranking UEFA e FIFA, che è ridicolo, perché te vedi squadre come il Belgio che sono uscite quasi prima di subito, che erano testa di serie assolute all'interno del torneo, e altre squadre che magari insomma si meritavano di stare in quella posizione, che alla fine insomma hanno dovuto veramente fare ranking, quindi cioè sono fatti così, calcolano. Sì, no, ma sono cose che vanno, vabbè, vanno cambiate, sono calcoli, cioè. Matematici, ma no, non sono ranking a tutti, cioè, credo che bisogna essere laureati in statistica e matematica per capire le sì, regole. Però una squadra che ha vinto 4 volte il campionato del mondo non può essere in terza linea con una squadra che è testa di serie, che non ha vinto manco uno, capito? Cioè però loro vedono i successi, ma le statistiche UEFA fondamentalmente si basano su come sei andato negli ultimi 5 anni. Negli ultimi 5 anni l'Italia ha fatto cagare a spruzzolo a cacca verde, cioè. Allora senti, Michela, com'è sto regolamento? Una merda. Bravo. Ma questo posto, è populismo, no, cazzo, stiamo dicendo, cioè, un sacco. Se lo dice Michela, stiamo dicendo, aspetta, un sacco di cazzate e luoghi comuni sul regolamento UEFA, che tristezza. Io comunque una menzione, dato che non la vedo scaletta, io la volevo fare per l'Islanda, cioè veramente sono stati eroici. Vabbè, non li metti in scaletta, perché noi qui stiamo elencando chi dobbiamo bestemmiare. Allora, l'Islanda, diciamo, perché se tu c'avevi il Tormund, l'ormone Tormund che girava, e in più fondamentalmente loro hanno inventato il balletto del clap e hanno fatto fronte comune. Non è l'hanno spiegata però sta cosa, è una danza tribale, che era la danza dei vichinghi che facevano prima andare in guerra, okay. Che secondo me se la sono inventata. Detto tanto il Portogallo ha segnato. Secondo me, però. Però c'è proprio. Mi dicono che Portogallo ha segnato nel frattempo. Hai visto? No, cioè, Cristiano Ronaldo, no, ma no, basta. Questo me lo ha fatto uscire. No. Via. Cioè, lui, il giocatore che non ha fatto un cazzo di niente. Che poi, posso dire una cosa? Mo sarà anche il giocatore più forte del mondo. Il Portogallo, secondo me, vince gli europei. Secondo me quest'anno è così, a bucio. No, vince la Francia. Vince la Francia perché, infatti, è proprio il prossimo punto. Che insomma, io voglio che fa morti de bestemmie alla Francia, che negli ultimi 15 anni ha organizzato più tornei tra mondiali e europei degli Olimpiadi durante 100 anni negli Stati Uniti. Cioè, vedi, è una cosa assurda, diciamo. Cioè, no. Però qualche risultato l'ha ottenuto, dai. Sì, vabbè, certo che se fai tutti i mondiali europei dentro casa tua, è chiaro che prima o poi qualcosa. Se li fa in casa sua, li perde tutti. Ah, vince, e chi? Sommato, non lo so, adesso non è che tutti quelli che organizzano vincono. Statisticamente. Vedi che allora c'ha ragione il commentatore. Dici le cose e poi non sai di chi stai a parlare. Di chi stai a parlare? Di chi stai a parlare? Non so. Alex, tu di chi stai a parlare? Io non lo so, io sono tipo contro Cristiano Ronaldo tutta la vita. Tutta la vita, pure io. Ma sta cosa della Francia, sei d'accordo o no? Pure tutti ti rifiuti di bestemmiare. Ma ti dirò, spesso e volentieri la Francia, quando ci sono mondiali europei, diventa la squadra che mi sta meno sul culo di tutte le altre, per cui la tifo anche. No, io non ce la faccio. Lo so che tu abbiamo creato questa trasmissione Morte di Bestemmie per bestemmiare contro i francesi. I francesi, è vero, è vero. Infatti, dalla prossima stagione faremo una puntata. Morti di Francia. Anzi, praticamente ogni puntata parliamo male di francesi. Morti di francestemmie. Francestemmie. Vabbè, inventiamoci qualcosa. E poi, vabbè, l'allenatore del Belgio, dato che ne parlavamo, no? Wilmots, che dice che ci capiva tanto di pallone. E alla fine, insomma, mi pare che tutta sta gran bella figura. Poi, insomma, io voglio capire, ma si personaggi che sono tutti di una gran simpatia, Alex. Cioè, quello è colpa di Mourinho, comunque. Dici che è l'effetto Mourinho. Ha lanciato la cosa dell'allenatore. Ma pure Capello era così, però. Che forse Capello è arrivato pure prima. Però Mourinho faceva ride, comunque. Alla fine non faceva ride a te. A me non ha mai fatto ride con Mourinho. Io se lo potessi fiaccarci in culo subito al volo. Lui, Capello. Ma pure quell'altro lì, come si chiama? Quell'altro. Quello lì, cazzo, non sapete mai di cosa parlate. Che vergogna, Alex. Vogliamo dire qualcosa su Wilmots? Ma sai che non ho idea di chi cazzo sia? È l'allenatore del Belgio. Non l'ho mai visto io. Ma ti famo contro il Belgio e basta. Ma non è che. E quindi non può bestemmiare contro i francesi con noi. Chi? La mamma di Carmine. Ah, attenzione. Francofila, nel senso che gli piacciono i francesi, nel senso li ama. Vabbè, pure io Carmine, facci sapere, perché qui stiamo dicendo un sacco di cazzate francesi. Luoghi comuni sulla Francia, eh. Infatti, francesi. Apro una parentesi. Io a Carmine. Asterix in francese. A Carmine, io non gli chiederei cose della famiglia, perché è vero, poi comincia a tirare fuori Gomorra. Esatto, è vero, è vero. Guarda, che ci abbiamo già prenotata, allora, per il podcast che faremo sulla televisione. E se spoilerà, e tu mi spoiler. Quando parleremo di Narcos, quindi cioè, dobbiamo vedere sto Narcos. Sorella televisione. Sì, sarà una ma prova. Perché? No, è vero. Ma no, dai. Perché io guarda, è vero. Io mi hanno spiegato oggi che Narcos non è quello che ho io alla sera, una certa, che mi addormento, o Michela, cioè proprio un telefilm, però francamente non mi interessa. La mamma di Carmine è semplicemente laureata in lingua e letteratura francese. Vabbè. Il che tra l'altro la riqualifica perché non è francese, io pensavo che era francese, la peggio, insomma. Vabbè, perché queste cose ti segnano dentro, voglio. Pure a me mi hanno segnato il culo. Ma poi ci siamo. Allora, passiamo all'ultimo punto. Anche Michele adora Putin perché è stato in Russia, no? Sì, infatti. Ieri quando parla della Russia, guarda, Michele, ci sono i tifosi della Russia che stanno devastando Lione. Ah, che belli, bravi questi della Russia. Questi che si fanno valere perché i ricordi. No, la ricordi? Quando noi mangiavamo la zuppa di cipolla del merda sotto i ponti mentre che me derubavano la borsa. E vabbè, dai, poi questi nuovi comuni contro la Russia veramente non si vanno sentiti. Secondo me tua moglie c'ha il poster di Gazprom in cameretta. Ma magari io c'è. No, però c'ha delle. No, c'è quello di Yuri Gagarin. C'ho delle foto e dei quadri che non ho potuto appendere qui, che ho nascosto dentro l'armadio perché lui mi voleva far buttare, però erano cose che avevo comprato russe. Beh, sicuramente erano delle merde infinite. No, erano icone russe, compare. In una chiesa. Critico. No. Vabbè. Qui ragazzi, ci potrebbe stare. Posso raccontare un aneddoto di un minuto che ho vissuto in Ucraina? Come no? Ucraina che adesso non è più Russia, però noi siamo andati a Sevastopol, che è comunque dove c'è l'armata russa, la flotta russa, per cui sono filo sovietici, cioè filo russi, non sono ucraini. Infatti vorrebbero fare la secessione per tornare in Russia. E praticamente siamo andati in un museo a fare delle riprese e dovevamo praticamente costruire un carrello. Ho detto vabbè ragazzi, andiamo a comprare delle manici di scopa e facciamo un carrello. Solo che ci stavamo mettendo un casino perché non riusciamo a trovare il supermercato. Allora nel museo la dirigente del museo ha detto venite con noi, cioè in realtà l'ha detto in russo, c'era l'interprete russo-inglese che parlava con noi. Siamo andati giù nello sgabuzzino, usate queste robe qui, ci guarda, ci porta due bandiere, una con Lenin, un'altra con proprio la bandiera proprio dell'Unione Sovietica, alte 4 metri di legno, le cose. E lui ha spiegato guarda che dobbiamo metterle per terra e usarle per fare un carrello. Sì, sì, mettetele pure per terra. Frega un cazzo, se vi scappa di pisciarci sopra, andate tranquilli. Io comunque ho la fotografia del sottoscritto con queste due bandiere per terra e il carrello con la telecamera sopra. Ma forse era Stalin. Ma era Stalin, no Lenin. No, no, Lenin. Conosce la differenza, Alex. Sì, diciamo perché, che anche loro, anche i russi, comunque un pochettino di differenza tra il fondatore della patria e uno che ha ammazzato 15 milioni di persone. Credo che la sappiano. No, ce l'hanno, l'hanno proprio relegato nel dimenticatoio. Per loro non è mai esistito. A parte qualche. Eppure quello che insomma, voglio dire, ha dimostrato che le popolazioni slave non hanno mai perso contro i tedeschi. Questo il Capine gli ha fatto fronte. Vabbè, ma comunque al di là di queste cose. Che cosa mo ci mettiamo a tessere lati anche? E adesso diciamo cose banali anche sul comunismo, che è una cosa importante. Perché d'altronde Putin non piega la testa e fa di fronte a nessuno. Diciamo assolutamente. C'è Luca che ci suggerisce di stare zitti. No, a parte quello, è una frase che poi tutti quanti vorrebbero sentirlo pronunciare, quindi lo invitiamo a mandarci un audio e io adesso la leggo, però la pronuncia mia non sarà sicuramente la stessa, però se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bere. Puccio, sei stato bravo? Comunque, regà. Vorremmo tornare un attimo perché qui c'è il campione esatto. Del mondo di morti di bestemmia di Euro 2016. Cioè, voglio dire, Alex, io penso che. Perché io ho visto una. Prima di dire chi è, io ho visto l'altro giorno, mentre che tornava a casa, no? Che esce tutti i tifosi intorno, bravo, dai, noi ti vogliamo bene. E l'intervistatore che gli faceva, vabbè, ma questo rigore, come l'hai tirato? E uno dietro, l'ha tirato come un grande, perché è un grande. Che io, se fossi stato l'intervistatore, mi sarei girato e gli ho detto, ma tu, ma che cazzo dici? A leccare il culo a questo qui, ma che cazzo te ne viene? Perché poi. Esatto, capito? Cioè, comunque, stiamo parlando di. Rullo di tamburi. Io direi il secondo nome piuttosto che il primo. Però va bene, ci sta. Qual è il secondo nome? Praticamente uno che ha fatto un balletto e ha fatto una rincorsa di 3 metri e 800 passi. Ah, questo è il secondo nome. Lungo come io, secondo nome. Secondo me è peggiore il secondo nome. Però il primo in scaletta c'è Zaza. Ando Zaza per noi tifosi della Juve. Simone, nel frattempo ti fanno i complimenti per la pronuncia perché l'hai detto meglio di come avrebbe potuto dirlo Carmine. Bravo, quanto sono bravo, sono veramente bravo. Bravo. Vabbè, insomma, noi siamo andati a perdere. Allora, diciamo così, noi siamo stati eliminati dalla Germania ai calci di rigore. Nonostante, insomma, che i tedeschi hanno fatto del loro meglio per farci passare il turno. E anche Buffon, insomma, ha fatto veramente un gran lavoro, tutto sommato. Però poi. Ragazzi, cioè, parliamone di questa cosa perché. Io vorrei stendere un velo pietoso, però se dobbiamo parlarne. Totale, totalmente, cioè, alla fine gli ha fatto pure il cucchiaio, non è quello che gli ha fatto il cucchiaio. No, quello è. Che è Pellè, mi sembra. Vedete? Andiamo bene. Sì, vabbè, quello è un'altra cosa, fai lo sborone e poi. Tiri la palla fuori, va bene, ma qui ti metti a fare il balletto per cercare. Ma poi perché? Per quale motivo? No, ma poi sei un cretino, cioè. Beh, cioè, allora, se pensi di praticamente mettere in difficoltà il portiere perché lo fai, che ne so, ma no, dice che lui li tira sempre così. Li tira sempre così, sì. Ma c'è sì. Alex che è andato in lupo, ti state dicendo un sacco di cazzate su Parigi, che tristezza. Ma poi chi è il commentatore anonimo? Cioè, no, no, ma io non l'ho mica trovato, aspetta, Brexit. No, su oggi. Però perché devi ascoltarci, andare su oggi perché puoi commentare come anonimo? Perché era uno che ha visto Gwen, ecco perché è incazzata con noi. Ciao, ecco. Gwen, scusaci, esci e sei perdonata. siamo tutti pari. Ma che Gwen? Ma come facciamo a saperlo? È anonimo, che cazzo? Oppure quello vabbè. Che mi ha condannato a morte, mi ha fatto la patria. Che sicuramente è sempre Gwen. Comunque, comunque è stato un momento triste per il calcio italiano, proprio perché veramente essere presi per il culo e prendere per il culo, perché poi in quel modo tu un po' prendi anche per il culo, che vai lì con questo atteggiamento un po' sbeffardo, roba del genere, e poi fai la figura del merda. È un po' come Totti quando ha sbagliato il cucchiaio, sì. Cioè, è così, raga, cioè, un po' d'umiltà. I calci di rigore in una eliminatoria si tirano pezza centrale e vaffanculo, come ha fatto Parolo. Cioè, quello è il calcio di rigore, capito? Però dice Carmine che possiamo perdonare in quanto... In quanto sei da Juve, allora lo perdoni. No, no, lui, no, cioè... Carmine ce l'ha con Pellè. Parla di Pellè. Sì, dice che Pippa ai rigori, però la fidanzata è più buona di... Ma secondo me questa invece era una stronzata. Cioè, siccome c'ho la fidanzata figa, mi si perdona tutto. No! Che cazzo c'entra la fidanzata figa? Anzi. Anche se fossi la fidanzata figa, a tirare il rigore così e non è da perdonare. Cioè, secondo me la fighezza non è una giustificazione. E basta con questo che la figa vince su tutto. La figa vince su tutto, ma... tranne il calcio. La figa vince su tutto. La figa vince su tutto, ma proprio la figa, non tutto quello che ci sta. Io sono d'accordo, perché se fosse stato per questo, allora vi sta considerato che Madri c'ha una fidanzata buona, allora l'avremmo dovuto tenere, invece l'abbiamo rispedito al mittente per quella pippa che è, insomma, quindi... Ma scusa, ma tu sei pure la fidanzata dei giocatori della Lazio? Quando Madri è venuto alla Lazio, che tutti vuoi, c'è la Negri, Anagri, come si chiama? Questa è buona, lo stadio, ha fotografato sempre, amore, Borona bella, oh dai, ed è forse via di qua, e tutto quanto, e poi alla fine, insomma, così, via di qua, via di qua, mettete su, mettete giù, gli facevano, perché poi, insomma, sai che a Roma non è che... sulla figa. Io vorrei che Alex mettesse uno stacchetto, perché a questo punto proprio entriamo un po' nella, scusa, nella fase calda. Scusate Alex, metti uno stacchetto pin di luoghi comuni e cazzate. Esatto, ok, perché adesso passiamo e entriamo nella fase del troione di spade. Aspetta che metto lo stacchetto. Stacchetto, perché siamo sempre pronti. Un sacco di cazzate, luoghi comuni, sul trono di spade, che tristezza, tristezza, che tristezza, che tristezza. Un sacco di cazzate, luoghi comuni, sul trono di spade, che tristezza, che tristezza, che tristezza. Comunque, guarda, posso dire che quello ha fatto veramente bene, è stato un grande, perché ha fatto veramente bene a commentare da Anonimo, se no penso che veramente non mi sarebbe uscito vivo stavolta. Vabbè, allora, che è successo? Qua trono di spade, Marco, questa è un po' più l'area tua, insomma, diciamo, perché... Non ci mettiamo a fare tutto il riassunto. Dai, non facciamo tutto il riassunto, perché, insomma, allunga la questione, sti cazzi. Sono successe due cose fondamentali. Il meme più bello, scusate, ve l'anticipo, ve la butto là, ma... No, Maria, io esco, è stato proprio il meme più bello di tutta la stagione. Quello dei coso che si buttate sotto? Sì, assolutamente. Vabbè. Comunque, la cosa importante è una, che finalmente è arrivato l'inverno. Oh, prima di tutto, che sono sei stagioni che stiamo aspettando l'inverno. È arrivato l'inverno. È arrivato. Che poi, voglio dire, cioè, nel senso, quando stai al grande inverno, a me non mi sembra che cambia tanto, insomma, se sempre nevica, quindi è sempre inverno. Ma all'inizio non nevica, quando comincia tutto quanto non nevica, è che adesso piano piano arriva l'inverno e quindi nevica. Ma chissà, forse è una glaciazione, Chi lo sa come funziona sta cosa del trono di spade, non lo sappiamo. Comunque, è arrivato l'inverno. Poi... come si chiama la piccola, la ragazzina? Aria si è sostituita praticamente alla madre, quindi, cioè, nel senso, sì, Lady Stoneheart, abbiamo capito che non, cioè, hanno trasposto la cosa su Aria. Aria e via dicendo, e quindi peccato, cioè, siamo ritrovata che ha acchiappato tutti i Frey, li ha fatti a pezzi e l'ha affettati pure e se li ha cucinati, ha pure perso il tempo a cucinarli e a servirli al padre, che poi è sgozzato, e quindi c'è, cioè, proprio il mostro diventato, sì, sì. Cioè, la saponificatrice di però glielo dice proprio, cioè, io sono Arya Stark e sono l'ultima cosa che vedrai, che vedrai è una Stark che ride mentre che tu muori. Io lì un po', devo dire, una gocciolina mi è uscita, devo però dire. Quella torta, quel pasticcio di carne sembrava un po' ti piaceva. Beh, certo, a cucinare bene, mica, cioè, moglie si sarebbe mangiato pure quello, insomma, tanto... Che è stunda, tu. Alex, tu saresti mangiato il pasticcio dei Frey? In realtà quel pasticcio già mi faceva schifo a guardarlo da lontano. Poi quando ho visto l'unghia incarnita del figlio, anche no. Però bisogna dire che la maschera di Aria insomma, le rendeva molta giustizia, cioè nel senso la faceva alzare di 20 centimetri, la faceva diventare una Gwen, per dire, cioè. Che poi tra l'altro tra l'altro era meglio insomma la maschera. Ah, sì, quello che devo dire. Che interpretava la maschera è un'attrice italiana. Ah, sì? Come si chiama? Nome, presto, nome, usciamola. Faceva il porno, immagino. Usciamolo. Vabbè, mentre Michela Lesci, esatto, andiamo avanti. Raccontiamo noi. Che purtroppo Marjorie l'abbiamo perduta, ragazzi, abbiamo perso Marjorie. Anche se che è stato detto un'esplosione nucleare. Anche se cosa. Hai ragione. Cioè, io ci spero sempre. Sì, un X-Men potrebbe essere. Vabbè, stai sempre in un racconto fantasy, può succedere. No, perché lì. Praticamente che è successo? Magari anche lei è una Targaryen. Che Cersei ha scoperto questa grande già. Leggenda che c'era alto fuoco ovunque sotto al Palazzo del Re, in realtà era vero, e quindi durante il suo processo ha bloccato il figlio lontano dalla sala dal tempio, e lei ha fatto gesto d'ombrello mentre tutti stavano a marchiare, come cacchio si chiama, il fratello di Loras. Lo stavano a marchiare, sì, perché adesso me ne sono pentito, adesso divento io un passero. Vabbè, comunque, mentre che stavano aspettando di fare il processo a Cersei stessa, questi alla fine lei non arrivava. Margine aveva capito, aveva intuito qualcosa non va. E lì è stato. Qualcosa non va. Però non è servito a niente, perché l'alto passo, perché ormai se la sentiva calda, ha fatto qua tanto preoccupare che tutto quanto sotto controllo. Cioè, quella la cosa bella è che colui è stato insomma man of the match per almeno un paio di episodi, insomma, uno che ce la sapeva lunga. Alla fine ha fatto la fine del coglione. Quella è stata la morte stronza della vita. Esatto, perché comunque lì è l'arroganza a un certo punto, cioè nel senso. La sento calla. E quindi schioppa tutto. E alla fine, in un momento insomma in cui si trova da solo, Bomben cioè, a un certo punto dice: oh, mi mette una stronza. Mi ha ammazzato l'unica persona che amavo. A fine non c'è sta più. Ha distrutto la fede che improvvisamente ho scoperto di avere. Me butto di sotto. Ciao. E lei. Giustamente un po' ne soffre di questa cosa. E dà un senso, come è uscito sempre in altri meme, dà un senso al nome della città, King's Landing, infatti. Perché sotterra a dire. che poi insomma dice: mannaggia, soffro, che dolore, seppelliscilo con i fratelli e datemi al trono delle spade. No, che, no. Che è la scena inquietante. Lascialo e mettilo dentro dove stava una volta il tempio. Esatto, sì, esatto, perché mo non c'ha più neanche. Tra l'altro, lì era il tempio dove erano seppelliti i figli. Ah, sì, tra l'altro, sì. Beh, infatti li mette insieme ai figli, che ormai sono cenere. E esatto, quindi insomma, dimostra veramente lei. Che è una donna che ha perso oramai il controllo di una capitale che praticamente oramai vive in se stessa. Cioè, nel senso, per tutto il resto del mondo è in guerra. Cioè, e lì dentro stanno tutti a fare i cazzi loro. Cioè, il resto del mondo era in guerra. Uno c'è rimasto solo Jon Snow. E basta, perché i Frey non ci stanno più. Beh, sono rimasti i Lannister. I Lannister stanno lì. Quindi stanno i Lannister, che tra l'altro 5-6 casate residue ce l'hanno tutte quei Lannister. Quindi è proprio. Ma mica tutte. Sono passati quelli del nord, sono passati tutti a Snow. Perché un'altra cosa. Dito Corto prova con Costanza, visto che ha salvato Johnny, dice: guarda, io Dito Corto non gli è nata bene come pensavo. No, perché dice: sai che c'è, io faccio qualsiasi cosa che faccio soltanto per un'immagine, cioè di me sul trono, perché qualsiasi cosa devo fare sul trono. Quindi tu, cara Sansa, tanto mica penseranno, me la devi dare, me la devi uscire. Esatto. No, ma poi ha detto: non è che le casate daranno la loro fedeltà a Jon Snow, che è pure bastardo. Non te perché se no. A scena dopo Jon Snow re del nord, che tra l'altro ricordiamo sempre che cosa che porta abbastanza sfiga, cioè nel senso, essere nominati re del nord io mi gratterei sempre. Infatti, no, sì. Non mi sembrava molto. No, io se fossi stato Joe Snow avrei detto: no, forse io sono Snow, non voglio sapere il cazzo di sta cosa. E però non è neanche Snow. Però dietro un grande uomo ci sono sempre due grandi donne. In questo caso la prima grande donna, o più o meno media, è Sansa, Maina Gioia, ma soprattutto Lyanna Mormont, è lei che fa partire tutto, no? Il mio cazzo di re è Jon Snow. Vince. Sì, è la regina. Vince sì, su sì, tutti, sì. La ragazzina che secondo me rischia, se la gioca come Man of the Season, attenzione. Perché... secondo me va a ridere potrebbe essere uccisa da Martin, però me dar cazzo mo, perché proprio esci il cazzo, perché tanto so donna. E vince. Fra un par d'anni so donna, sì, sì. Diciamo così, povera, legalmente qui so donna. Povera comunque è in lizza per essere uccisa nella prossima stagione, o perlomeno nei libri, perché Martin, non sai, se tu mostri affiatamento o dici: ah, ma sto personaggio è figo, se lo dicono in tanti poi muore. Sì, ma ho capito, questo sono d'accordo con te, ma prima o poi vogliamo arrivare a una conclusione, oppure ci devi ancora romper cazzo per altri mille anni? No, infatti, ci arriviamo. Quando arriviamo alla mica noi, quando arriverà la conclusione, comunque arriveranno poi altri morti, perché altra gente muore, non è che muore più. Beh, però attenzione, prima di tutto parliamo dell'ultimo degli stronzi oramai, che è Jamie Lannister, che mentre Ernano ha detto ok, io adesso sono fedele alla causa di Daenerys Targaryen, sono io vicino, ed è diventato primo cavaliere, infatti è stato nominato primo cavaliere, sono adesso credo in te, sei la prima cosa a cui credo, quindi non mi deludere, infatti, perché comunque adesso stanno partendo con Daenerys, con i Dorniani, con quei cazzi imperi, stanno andando tutti quanti a Westeros per cominciare la conquista. Stavano andando tutti al West End. State dicendo un sacco di cazzate in luoghi comuni sulla spada di fuoco. La spada, che la spada, spada di fuoco. Ancora non abbiamo parlato della spada di fuoco, che dopo che era uscita. E questa spada da fuoco dei tre Lannister, l'ultimo, che è Jamie Lannister, che torna da Delta delle Acque e trova tutto sfragnato. Io ce lo vedo, Jamie Lannister fa: io non so Lannister così, io so Lannister così. Io però posso dire una cosa, che nella scena finale dove noi vediamo, perché noi abbiamo sempre considerato il fatto che abbiamo visto queste due anime di Jamie Lannister, no? E sappiamo che Jamie Lannister fondamentalmente, se non fosse per il retaggio, per il nome della casata che si porta dietro, la bacia, anche per la figa, potrebbe essere anche una brava persona, no? Potrebbe anche essere una brava persona. Però c'è sta cosa della fregna della sorella, che è proprio una cosa che lui non riesce a superarla, sta cosa. Però quando ritorna a Prato Terre e vede tutto e ha capito tutto, perché cioè è figo, si è ammazzato, perché gli avranno detto nel frattempo oh, guarda che mi sa che è morto. Beh, ma anche se non gli hanno detto, vede lì e si vede la madre che viene incoronata, lui è andato, ma penso che l'avranno saputo, la madre, la moglie, verso il figlio che è morto. Ma gli facciamo il funerale? Hai visto la scena quella di crematelo, sì, crematelo, crematelo, spargete le ceneri là. Sì, sì, no, ma ormai lei non c'ha più nessun motivo. E secondo me lui lì si è reso conto che, cioè, nel senso, lei ha superato il bordo. Bisogna vedere se anche lui andrà ormai dietro. Si è vestita da generale Bison ormai. Sì, sì, ma veramente sembra. È diventata il Suzuken. E insomma, secondo me Jamie ha cominciato a dire. No, ma se, che no, non me la dà più. Io, no, ma non è. Non è se, questo è il primo pensiero. Secondo me non ne va dietro. Non so, Alex, tu che dici? Mi sono perso perché stavo leggendo le cose. I commenti dei ridimmi la domanda. Dico, scusa. Secondo te, Jamie, dato che lei oramai ha barcato la sua. Secondo te, Jamie barcherà anche lui sta cosa del fuori controllo? Oppure. Secondo me Jamie farà una di quelle, passerà al lato oscuro anche lui, insieme appunto al gerarca nazista di sua sorella, ma nell'ultimo istante, come ha fatto lo Kingslayer, alla fine farà qualcosa del genere, nel senso si redimirà in qualche modo e si immolerà uccidendo anche se stesso, perché è lì in quel momento, come si chiama, Brian of Tarth, si sarà molto triste. Ma anche lui, porco due. Alla fine si bomberà lo scudiero. Oh, ma almeno c'è il cazzo grosso, come si dice in giro. Stiamo dicendo un sacco di fregnacce, di banalità. Di banalità sui cazzi grossi. E tu, Michela, che volevi dire? Ci suggerisce che Cersei è vestita come Maleficent. E beh, un po' la ricorda, perché comunque è tutta scura, non c'ha niente in testa. Cioè, non gliene frega un cazzo. Cioè, proprio c'è la faccia di quella, cioè, tanto devo fare questo. Sì, sì, no, no, lì è proprio. Ma la scena finale raccoglie proprio tutta l'oscurità di questa cosa. Cioè, proprio il regno del male, proprio. Cioè. Beh, anche perché la gente mo se caga in mano, perché lei si ricorda quelli che gli hanno tirato la merda. Avete buttato la merda addosso, di mortacci vostra. Mo so cazzi vostra. Cioè, che poi io non ho capito, ma c'è qualche problema proprio nell'acqua che bevono lì a Prato del Re? Perché vedo che sti re danno fuori da matto tutti quanti. Non mica bevono acqua, quelli bevono solo vino. Solo vino. Altro vino. Forse c'è altro. C'è problema sul vino. Io non lo sento più. Sì, sì, c'è, tranquillo. Comunque, no, secondo facciamo un rapido punto. Di casate che potrebbero ancora. A parte quelle minori, dici. C'è rimasti Lannister, ok, e va bene. Poi c'è i Frey, stanno fuori. I Bolton stanno fuori. I Karstark, è rimasto sì, il figlio. Sì, ma queste erano casate minori, i sette regni non sono poi tanti. Allora, i Martell, si sono alleati con quelli dell'Alto Giardino, come si chiamano, con i Tyrell. E sì, Tyrell sono assolutamente contro, cioè l'anima e Tyrell stanno con i Targaryen, che sono i nemici. No, che sono i nemici dei Lannister per eccellenza oramai. Quindi i tre, tutte e tre le casate, tra virgolette, che stanno... Apro una parentesi, questi hanno ammazzato la figlia dei Cersei inutilmente a sto punto, perché tanto volevano fare la guerra, l'avrebbero fatta in ogni caso. Arrivava Daenerys, oh, io sto a fare la guerra, venite, sì, andiamo. Vabbè, quello che ne sapevano loro, scusa. Sì, che dovevano far fuori... No, lì era una vendetta proprio, cioè loro quella non era neanche gesto politico, era proprio una vendetta, cioè basta, quindi... Allora dovevano far scoppiare la guerra, dovevano proprio fare questo... Però no, in realtà è stato occhio per occhio, dente per... Perché fondamentalmente loro gli hanno ammazzato la bambina e loro gli hanno ammazzato la bambina, cioè nel senso, bambina per bambina, anche se poi, come abbiamo spiegato, è stato certificato come si chiama Myrcella, era una zoccolona pure lei, ha imparato le peggio cose a come si chiamano lì nel sud, come cazzo si chiamano quelli del sud, il sudero, siamo nel sud, sud, ok, il sudero, si può bene. Meridionale, i terroni, come terrori, si può bene. Dai, come si chiama? Terroros. Siamo facendo un sacco di luoghi comuni e luoghi comuni sui terrori, sui terrori. Tra i quali includiamo anche noi. Che schifo, anche pure ci facciamo io schifo da solo, infatti. Oh, quella di Tyrell che è rimasta solo lei, tutta vestita di nero e dorme, che merita la vendetta, vale comunque, non dico che vedo che poi ha proprio il suo charme, il suo tatto è immutato, insomma, io vorrei zitta tu, tu sta zitta, tu è zitta. Comunque era d'oro. Comunque lei era incazzata perché Giuseppe era rubato il fuoco. Vabbè, però comunque al di là di tutte queste cose, tu che cazzo sei? Mo te fino una centra che te faccio rigirare la testa proprio. Hai finito di parlare? Come ti chiami? Barbo, Bobo. Bombolo, chi sei? Bombolo. Cazzo. Chi sei, Bombolo? Chi sei tu, Bombolo? Vabbè, e comunque, vabbè, sti cazzi, dai. Alla fine sta puntata è bella perché è proprio il preludio del gran casino. C'è questa scena finale bellissima con l'incoronazione, cioè bellissima, veramente oscura, proprio tetra, bellissima. E poi, ragazzi, c'è poi c'è la scena per eccellenza, cioè voglio dire, la scena dove praticamente zio Katzen lì, come si chiama, lascia Monco per terra, dice tanto qui i morti non ci arrivano. Poi tra l'altro scopriamo una cosa, che la barriera in realtà è insormontabile per gli estranei, perché praticamente non è solo la barriera fisica, dice per i morti, ma per i non vivi. Bah. Infatti anche per lui dice, anche lui non può, perché lui comunque è morto, cioè. Tra l'altro quindi anche se anche in effetto contrario, pure Jon Snow in realtà avrà questo problema. Comunque vabbè, e praticamente non è solo la barriera fisica, ma praticamente anche la potente magia che praticamente è stata impregnata tutto quanto, insomma, impedirà, insomma, ai morti di passare. E quindi lo lascia là, dice io andrò a fare il mio dovere, tu te lascio qua sotto l'albero l'albero che ha la faccia del Joker, ci metti la mano in faccia e quello ti dice tutto. Che poi, ma, cioè vabbè, ok, gli dice tutto e tutto quanto, ma quelli come si spostano? Ma penso che siano vicino comunque al muro. Sì, vabbè, ma questo mo lo vedremo, adesso non mi sembra il problema, però posso dire una cosa, che questa è... Non mi sembra un problema, mettiti nei panni della bambinetta, non mi sembra un problema, sto grande cazzo, dovuto trascinarmi sto storpio di merda. Vabbè, oh, chi ha detto, insomma... Il fratello poi gliel'ha detto, lei amava il fratello. Ma pure quella, dai. Sì, nel senso fratellico. Comunque, questo io faccio una critica, perché volutamente o non volutamente, questo ovviamente è anche un po' una cosa, cioè anche logica per certi versi, chiaramente quello che ti raccontano i libri, quello che tu puoi capire leggendo i libri che sono dettagliati e via dicendo, non te lo può dire una scena in televisione, perché comunque la scena in televisione ci fa vedere quello che noi sapevamo che doveva succedere, ossia la rivelazione su Jon Snow, però in realtà poi questa rivelazione non è che ci ha fatto cioè abbiamo capito qualcosa, ma poi alla fine HBO ha dovuto fare l'infographic per far capire com'era la questione, perché la gente si era scatenata, sì, dicendo no, è il figlio del cazzo, è il figlio di Frigna, il figlio del culo, ma è litigato, è una parola grossa, sì, insomma, cioè, sì. C'è il segno della cinquina sulla che pancia. Volavano venivano utilizzati come armi, attenzione. Mi do più sganasso. No, quello è vecchio, quell'altro è giovane, quell'altro è brutto, quell'altro è bello. No, in realtà quello che non era chiaro è che questo cazzo di Re Folle c'aveva tre figli, di cui uno inevitabilmente era di gran lunga più grande degli altri due, perché non poteva essere il fratello di Daenerys, cioè voglio dire, perché il fratello di Daenerys c'aveva la stessa età di Jon Snow. Per uno perché c'era più o meno la stessa età di Jon Snow, e due perché era un coglione immane. A parte quello, secondo me era pure un po' gay. No, era solo un coglione immane. No, era un coglione immane, però aveva 7 anni più di era Daenerys. Era abbastanza introbabile comunque. Capito? A 7 anni non può essere comunque il padre di Jon Snow. No. Sì, dai, aveva molti più anni il fratello maggiore di Viserys. Appunto, dico, cioè ci deve avere comunque X anni, molto di più, perché per forza, se no non rientravano le questioni. Quindi noi vediamo praticamente Ned Stark che entra praticamente nella torre della gioia con la, tanto gioia c'era perché c'era la sorella che lui tanto amava, che pure lui sbrattava sangue e gli dice: ti è sto ragazzino, trattalo come se fosse tuo figlio, ma proteggilo, nascondilo, perché sai che se lo scopre lo ammazzerà. E tutti ci siamo interrogati chi, come, quando, dove, perché insomma alla fine non capivamo, e addirittura io avevo ipotizzato che fosse proprio il figlio di Robert Baratheon e quindi a quel punto era legittimo erede al trono. Invece poi noi scopriamo che è il figlio, anzi sarebbe il nipote del Re Folle, quindi in teoria anche lui legittimo erede. Certo. O non proprio legittimo erede, perché in realtà ci sono no, non lo so, forse perché, sì. Oddio, dipende se contano le donne. Se contano le donne, Daenerys, che è la zia, dovrebbe essere prima di lei incoronata. Ma in linea di successione lui. Ma lui è praticamente il figlio del primogenito del Re Folle, e quindi in teoria no, è lui il... Ma non è mai stato incoronato? No, non è più. Ma Daenerys è stata mai incoronata? Lo so, però è quella più... Tanto oramai siamo arrivati in un punto del Trono delle Spade dove tutti sorete qualsiasi adesso, cosa. A Jon Snow, francamente... Ne avrei un cazzo. Il Trono delle Spade, non gliene frega. Però secondo me quando prima o poi qualcuno glielo dirà, perché poi se ne incontrerà con Brandon... Brandone! A Brandone! Cioè, prima... no, se no non c'ha senso il fatto che lui apprende questa informazione, no? Cioè, vuoi dire, no, ma comunque a chi serve? Non è l'informazione che stiamo dicendo, non è l'informazione che poi condivide. Cioè, o sai che sei figlio dei Targaryen, i mortacci tua, e come lo dimostri? Mica c'è il coso del DNA, quindi con che modo lo potrei dimostrare? Uno, questa cosa. Due, è comunque un'informazione che Jon Snow si deve tenere per sé, perché Dito Corto non aspetta altro, perché una volta che dice questo non è fiore di Ned Stark. È il nipote di Ned Stark, per cui non è titolato a diventare re del nord, potrebbe prendere lui, vantare lui, mettere fasse avanti, per cui è un'informazione che dovrebbe tenere. Sì, bisogna vedere come se la gestiscono sta cosa e qual è il motivo per cui Bran viene a sapere sta cosa, cioè nel senso di là, perché era così importante anche quando era sotto addestramento dal Corvo da Tre Occhi, perché era così importante questa narrazione, questa parte della storia del padre che lui doveva sapere. Quindi insomma vabbè, poi vedremo, perché perché lui è perché è così brutta, perché è predestinato, è cristologico. No, è cristologico, vabbè. Sì, no vabbè. Comunque Alex, tu che... Vabbè, vediamo poi come verrà utilizzata sta cosa. Tu che hai anche forse più memoria di noi, Jon Snow ha mai dato prova di essere ignifugo? Non mi sembra, vero? No, infatti. Però appunto sono le cronache, quindi... del ghiaccio e del fuoco. Il fuoco è Daenerys, lì potrebbe essere il ghiaccio. O il ghiaccio, sì, sono i cattivi. Sì, però lui se c'ha il sangue Targaryen nelle vene, in teoria dovrebbe essere il fuoco pure lui. Non è vero, perché Viserys invece non era come Daenerys. Solo Daenerys è praticamente una sorta di prescelta che riesce a resistere alle fiamme. Gli altri, secondo me, erano persone normali. E Daenerys che è particolarmente, sì, magica. Ma infatti per quello che ti dicevo, come lo dimostri che sei figlio di Targaryen, che c'ha pure i capelli neri? Ma secondo me non abbiamo capito un cazzo. Secondo me manco la HBO ci ha capito un cazzo. O secondo me ci sta depistando. Chi è che ci dice che secondo lui è una sorta di errore narrativo? Sì, pure secondo me, sai, c'è qualcosa che non mi torna. Però sta cosa qua nel primo libro viene già, Aspetta, il flashback di Ned Flanders, Ned Flanders. Il flashback di Ned Stark che riceve che si sente dire da sua sorella proteggilo, c'è anche nel primo libro. Per cui era già prevista sta roba. No, i Lannister sono biondi, i Targaryen sono bianchi. Sì, sì, scusami, rispondo a qualcuno. C'ha anche gli occhi viola, se è per questo. Sì, è vero. Vabbè, comunque dai ragazzi, a questo punto facciamo una cosa, poi di questa cosa ne parleremo la prossima stagione. Anche perché ormai la HBO ci ha fatto pure l'infografica. Sì, però boh, a me non mi torna ancora sta io cosa. Non so, però... una curiosità che poi magari, perché magari sui libri ancora non è stata rivelata. È stata rivelata questa cosa sui libri? Sì, dicono che ufficiale. No, non è, no è stata, c'era un, c'è un flashback, però non viene detta sta roba qua. Capito, oh, cioè, secondo me non lo sa neanche l'HBO. È probabile che Martin ancora non gli abbia detto, perché cioè aspetta che devo ancora scrivere il libro. Sì, ma da io da quanto so nella prossima stagione loro andranno per cazzi loro, cioè nel senso. Ho capito, ma non è che poi fa passare tizio X per il tizio Y. Beh no, ormai la prossima stagione è quella dopo, sono 13 puntate in cui finisce tutto, appunto, cioè ormai è finita. Sì. Cioè, sarà l'unica grande battaglione. Però nel frattempo magari esce il libro di Martin con cui c'è la rivelazione, per cui le fanno accoppiare le due cose. Sì, boh, comunque a me non è che mi convince tanto questa cosa. Comunque vabbè, a cambia un po' le carte. Anche sti cazzi, facciamo così, ragazzi, perché poi dopo la allunghiamo troppo. Allora, prima di tutto, vabbè, dopo lo andiamo a pescare, c'era il sondaggione proprio in merito a sta puntata che l'abbiamo proprio accannato, insomma, vince a mani basse una voce importantissima del sondaggione sul Tetexit. Però comunque diciamo, allora, prima di tutto secondo noi il morto, com'era? Morto dell'anno. Il morto da caglione dell'anno chi è? Morto più stronzo dell'anno. Morto più stronzo. Sai, io non c'ho piacere stanno, e a me mi viene in mente soltanto quello sfregnato dalla montagna, perché è epico insomma. Quello che pisci e dopo te ritrovi schiacciato. Io stavo a pensare lo stesso. Schiaccio la faccia, sì, sì. È così. Quello è a quello, però pure insomma l'alto passero fa veramente la morte da coglione. Sì, ma l'alto passero boh, non lo so. Però no, voto la sfragnata, pure io. Io faccio sfragnata, Michela? Sì. Io direi sempre Tommen, perché comunque alla fine. Beh, ma non è morto da coglione, poraccio, quello era disperato, cioè si è suicidato. Cioè, veramente poveretto. Guarda, stai dicendo un sacco di cazzate. Infatti, sì. Comuni sono gente che si suicida. È veramente una cosa brutta. Vergognati. Che hanno detto che è un strozzo. Alex, tu che voti? Allora, morte stronza, il tipo che è diventato bidimensionale perché stava tanto che stava pisciando. Sfragnato, okay, quello sono tutta la vita. E vince, oramai abbiamo capito che vince l'uomo sfragnato e l'uomo. La morte stronza che morirà stronza, però non sappiamo quando, perché l'abbiamo lasciata in fase tortura della montagna. E credo che andrà molto. E la suora. Vabbè, ma quella ancora non è morta. Quindi... Tu devi capire che a me mi piacevi al cazzo di mio fratello, porco due, godevo una troia. E mo tu non morirai, ti faccio soffrire perché il tuo nuovo dio è la montagna. È un dio della montagna. Lei praticamente. Ma che cosa le farà mai? Che urla così tanto, chi può dirlo? Ma perché non sappiamo, infatti. Non voglio. Le ha scoreggiate in faccia. Il man of the season bisogna scegliere. Man of the season, ragazzi, che insomma ce ne stanno diversi. Però a questo punto io proprio faccio un voto d'impulso, perché ha fatto poco, ma ha parlato poco, ma ha ficcato tanto, secondo me. Ed è la ragazzina Mormont. Sì, Lianna Mormont. Pure io. Io la voto così, perché proprio secondo me avere una figlia così. Adesso diglielo a Matteo. Matteo, perché... io non voglio te, voglio Lianna Mormont. Io glielo dico sempre, ti devi dar da fare, ti devi svegliare, devi diventare come Lianna Mormont. Quella c'ha la metà dell'età tua, è più svegliata. E già da 64 uomini a destra un manca, così, capito? Cioè, è mica Anche cioè, comunque la dignità con cui dice ok, vi cedo tutto il mio esercito, vi do tutti i miei uomini che sono 60 persone 64. Però va anche lei, è tosta lei. Sì. Quasi in prima linea. Beh, anche perché lei sa quali sono i suoi doveri, molto più di tante famiglie che giustamente durante l'incoronazione di Jon Snow hanno detto beh sì, noi in effetti se siamo dati. Tu fratello, tuo figlio l'ha ammazzato durante il matrimonio nostro e non ha risposto alla chiamata. Tu, quello che ha fatto il culo con strisce vivo, e sei venuto alla chiamata. Tu io ho risposto alla chiamata, vaffanculo, per me lui è il mio re. E il barbone dice: Lady Mormont è stata un po' dura con noi. Però c'ha ragione. E lì è stata comunque anche quella una bella scena. Comunque, per me, man of the season è lei. Michela, pure te? Sì. Alex? Allora, di pancia lei e di testa Jon Snow. Però Jon Snow è quasi scontato, è cristologico, no? Cioè, nel senso, è la figura eroica. L'amicizia che ci lega con Luca Casciola fa sì che io veda visione cristologica a destra manca. A destra manca, ok. Vabbè, però vince a questo punto lei, tranquillamente e a mani basse. Beh, io non so se volevi dire qualcos'altro, Marco, ci sono altre mini rubriche qua, no? Sì, ci sono altre mini rubriche. Ritorniamo in Morti di bestemmie a questo punto, però io devo ritrovarla perché me la sono persa, può succedere. Praticamente c'è il sangue del tapiro. Sangue del tapiro, ma velocemente, no, perché qualche ancora giorno fa c'è sempre, cioè, qualche giorno fa è uscita questa notizia dei migranti a cui venivano espiantati gli organi se non c'avevano i soldi per pagare. Ma davvero? Sì, c'era questa notizia e consultando Bufale un tanto al chilo, giustamente sì, questo qui del titolo del sito si è fatto due domande, cioè espiantare gli organi non è che come andare a fare, che ne so, la pesca del tonno e lo surgeri sul momento e te lo consumi quando ti pare, cioè tu devi avere già delle persone che sono pronte a ricevere l'organo, devono essere espiantati in determinati modi, devono essere conservati in determinati modi, devono essere utilizzate subito. Quindi giustamente ci faceva notare che, andando a riflettere sulla situazione di questo racconto che è stato fatto da un pentito tra virgolette, le soluzioni erano due: o che forse c'era qualcosa di più rispetto a quello che aveva detto questa persona, che praticamente è uno di questi che faceva traffici internazionali di persone, che ovviamente sono quelli che, gli scafisti per capirci, insomma, oppure probabilmente è una cazzata immane che è stata sparata. Ma io voto la seconda, perché la gente non è che si mette a fare tutto sto ragionamento. La gente, tu gli dici: ah, questi gli rubano gli organi, che cazzo, gli rubano gli organi, merda, li vogliamo, esatto, così funziona, così, quindi lo sappiamo oramai, ce lo siamo imparato con internet in maniera particolare, insomma. Infatti da quando esiste Facebook il tasto più cliccato della tastiera è il tasto 1 seguito dal tasto punto esclamativo, esatto. Che è lo stesso, sì. No, ma comunque io invece che non sta in nessuna rubrica, però stavo leggendo oggi una notizia sulla macchina, quella a guida automatica, la Tesla, mi sembra, se non sbaglio. Quello è vero. Quello è vero, che c'ha avuto un incidente mortale, perché praticamente andrà a finire sotto un camion, dentro un camion, perché sembra che il sistema automatico non abbia visto il camion, perché era uno di quelli molto alti, e due perché c'era un cielo molto chiaro e il rimorchio era bianco, per cui si è confuso, non lo distingueva, e è andato dritto. Vabbè, ragazzi, queste sono tecnologie che vanno perfezionate, tanto quella persona probabilmente era destinata a morire comunque. Quella persona era destinata che stava praticamente a farsi i cazzi sua, quindi non stava neanche a guardare quello che succedeva, e quindi praticamente andava. Ma cosa, ne accorto? Ma no, infatti veramente era distratto anche lui. Meglio così, guarda, cioè tanto via. Poi, guarda, stavo dicendo un sacco di banalità sulla gente, sulla morte, schiacciato dal gaglio. Esatto. E no, adesso bestemmiamo salutando tutti. Ah, ok, va bene. Bestemmiamo Skype innanzitutto. Allora, prima di tutto salutiamo Skype, che deve morire bestemmie insieme a Microsoft, tutti quanti, insomma, perché Skype non è mai eccelso in maniera particolare, ma in particolare, insomma, da quando poi è stato acquisito fa schifo, ma era normale perché è fisiologico. Tu entri a far parte di una cosa che fa schifo, diventi schifo anche tu, che magari funzioni piuttosto bene. Questo oramai l'abbiamo. Stai dicendo un sacco di banalità. Di banalità su Skype. Esatto, Skype, esatto, Mario, esatto. E luoghi comuni a non finire. Che schifo, proprio che schifo. Allora, io volevo solo dire del sondaggio finale a questo punto. Diciamo il sondaggio che abbiamo fatto su Facebook, ma in realtà me lo so perso, e quindi sti cazzi anche del sondaggio. E quindi, allora, dato che questo è il finale di stagione, ci risentiremo poi sicuramente a settembre, poi vediamo, insomma, perché sapete che a settembre Alex si sposa, quindi avrà sicuramente i suoi impegni durante un certo periodo di tempo, un lasso di tempo, non so quando poi torneremo a fare questa trasmissione. Io, a nome mio, quindi Simone Pizzi, saluto a tutti, vi ringrazio, mi raccomando, continuate a seguirci, magari ogni tanto butteremo qualcosa nel feed giusto per qualche bestemmia, un porco di là, esatto, tipo qualche file di un minuto con bestemmia. per andare praticamente a un po' prendere anche spunto da quelli che sono i sondaggi di Libero, no? I bellissimi, ricordate? I sondaggi di Libero, tipo, avete mai messo la mano nel sedere da soli? Oppure, che ne so, vi siete mai puliti il naso con il mignolo? Questi sondaggi io quasi quasi mi sento di farne. Io perché vedo che la gente poi partecipa, quindi ogni tanto sondaggeremo anche noi. Metterò qualche sondaggio che vi farà tanto piacere, okay. Dove potete rispondere liberamente. Quindi cercate su Facebook la pagina Morti di Bestemmie, saremo là, fate mi piace, insomma cercheremo insomma di interagire. Poi intanto, come abbiamo detto con Alex, butteremo dei file. Ci manda un altro insulto. Magari siete simpatici e fate ridere, purtroppo siete più vicini voi al fascismo del sottoscritto. Perché io ho capito questo da che parte sta, quindi. Conto. Vabbè, mo capito. Allora, vabbè, viva Beppe Grillo e tutto quanto. Dai, ce ne frega niente, dai. Questi devono venire a rompere i coglioni anche su una cosa divertente, cioè devono veramente, è una cosa che questo deve morire bestemmie, perché devono venire a rompere i coglioni anche su una cosa che uno sta a fa per ride. Pensa come state malati, capito? Che ancora non siete capaci. E poi se lo fai da anonimo è veramente da Fai... dimmi come ti chiami, vieni a far vedere, così almeno dopo è, perché cioè non hai capito proprio un cazzo, cioè non hai capito un cazzo, non è cattiveria, proprio non hai capito un cazzo. Vabbè, comunque, quindi abbiamo finito appunto con le morti di bestemmie, che è giusto. Cioè, uccisi di bestemmie anche gli ascoltatori anonimi. Esatto. Che è giusto pure che sia così. Anche quelli anonimi, massimo di tutti. Tutti quanti. Infatti. Passate una buona vacanza. Se trovate degli anonimi in giro, mazzate delle bestemmie pure voi. E quindi da parte mia, Simone Pizzi, un saluto. Vai Marco. E qui vi saluto. E Michela De Paola. Ciao a tutti, io vi ringrazio per avermi ospitato in questa puntata. Controvoglia. La puntata in questo speciale. Perché noi in realtà le abbiamo detto che avremmo fatto uno speciale IPN di tutto un podcast per farle venire qui. Era tutta una gabbola. C'è cascata. Infatti lei voleva parlare di politica, voleva parlare di partigiani, queste cose. Va bene, e ringrazio e saluto chiaramente un po' l'autore, diciamo il fautore di questo progetto, che insomma se si prende meriti e demeriti e anche gli insulti anonimi, Alex Raccuglia. Tante bestemmie a tutti quanti, agli anonimi e gli onimi. No, in realtà io devo dire che mi sono divertito come un pazzo a fare queste quante sono puntate, 14. Mi sono divertito come un pazzo e mi duole di farlo adesso in condizioni climaticamente, soprattutto networkicamente incasinate, però è bellissimo. Ci rivediamo a ottobre, perché io il mese di settembre sarò in viaggio di nozze degli Stati Uniti, facendo campagna elettorale per Hillary Clinton. Bravo. Comunque, perché noi ci abbiamo rinunciato a sto viaggio di nozze negli Stati Uniti, quindi non so, mi voglio certe volte dice cose a casaccio proprio, cioè, è vero. Vabbè. Ma non è colpa mia. Prendi appunti, Alex, quando vai negli Stati Uniti, redneck, sì, ovviamente sì, cercheranno, sì. Esatto, cercheranno esatto. Di abusare di te. Esatto. Faremo lo speciale Morti di bestemmie, road to United States. Road to cazzate, luoghi comuni in USA. E anonimati, esatto. Va bene. Questo sarà il titolo della prossima puntata, attenzione. Quindi vai Alex, saluto finale mentre che muori, che è bello, perché insomma è anche degno. Sta parlando di bestemmie, quindi lascialo morire. Geggio Momomaterno si sposa anche lui a settembre, ma anche lui in viaggio di nozze negli USA, ci vediamo lì, dai, facciamo campagna elettorale. Magari vi scontrate sulla 666 mentre che uno va da una parte, uno va dall'altra. Bene. Cioè giri, fate un giro oppure restate in no andiamo esattamente nel centro degli Stati Uniti, siamo 21 giorni così nel deserto del Nevada, no facciamo un giro molto lungo. Andiamo a Boston, San Francisco, tutta la California, un po' di parchi naturali vicino all'Arizona. Poi andiamo a, come si dice? Quindi vai da Bubu. Andiamo in Nevada, Los Angeles, la capitale, e poi New York. Ma pure Albuquerque? No. Sì, proprio Albuquerque. Albert Cookie, anzi. Va bene, buonanotte a tutti. Ciao, grazie, buonanotte, ci vediamo a ottobre. Ciao. Viva la fine. State, ciao. of the worry through with me. I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing's real but pain now. Hold my breath. This podcast has been produced with PodCleaner.